Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi da Nicoletta Carbone. Siamo pronti per andare ai titoli del nostro sommario, ma un ringraziamento speciale a Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica e come sempre a Laura Vanossi in redazione. Andiamo. Retina, la parte nobile dell'occhio. Nutraceutici, cosa sono e come utilizzarli. Una salsa che ci fa impazzire, la maionese. Oggi focalizziamo la nostra attenzione sulla retina e sulle patologie che possono interessarla. Parleremo dei segnali che ci devono far insospettire, degli esami da fare, delle terapie, ma vedremo insieme anche se è possibile prevenire i disturbi e come fare. Insieme a noi oggi è tornato a trovarci il professor Francesco Bandello, direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Professor Bandello, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, tante volte l'occhio è stato paragonato ad una macchina fotografica e la pellicola di questa macchina naturale è la retina, che si trova proprio nella parte posteriore dell'occhio. Ma come ogni parte del nostro corpo, anche la retina invecchia e può ammalarsi. Ci sono delle patologie e direi anche delle condizioni che possono aumentare questo rischio. Iniziamo proprio dai rischi, professor Bandello. Ci sono dei soggetti più vulnerabili di altri? Vogliamo individuarli in modo che da casa chi si sente inserito in questa sorta di elenco possa intervenire e chiamarci per chiedere delucidazioni? Sì, la prima condizione che ahimè costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie retiniche è l'età che avanza, il passare degli anni. C'è una malattia che si chiama degenerazione maculare legata all'età, che è una malattia che sta esplodendo dal punto di vista epidemiologico a causa dell'allungamento della vita media, sì, che colpisce le persone che hanno superato i 60 anni. Addirittura oggi c'è la tendenza a etichettare come degenerazione maculare legata all'età anche quei processi degenerativi che colpiscono le persone dopo i 55 anni di età. E la frequenza di questa malattia cresce sempre di più e con una serie di ricadute importantissime dal punto di vista della sanità, ma anche dal punto di vista sociale, dell'economia sanitaria e così via. Altre categorie a rischio, quindi oltre alle persone di età avanzata, sono i soggetti diabetici. Il diabete mellito può, tra le varie conseguenze croniche della malattia, associare anche delle complicanze retiniche che vengono classificate come retinopatia diabetica. Sì. L'ipertensione arteriosa è un altro fattore di rischio importante per alcuni tipi particolari di malattie. E poi la miopia che non è un fattore di rischio sistemico generico, ma è un fattore di rischio specifico oculistico, e anche la miopia per vari versi è in grado di determinare la insorgenza di patologie retiniche. Quindi se siete miopi, se siete diabetici, avete superato gli ANTA, professor Bandelli, intesi come 60, ma direi anche come dai 55 in avanti, se siete ipertesi, donne o uomini di più, professore? Ma diciamo che le donne hanno qualche elemento in più, qualche punto in più percentuale di rischio di solito, che è legato anche al fatto che le donne vivono molto di più, come a tutti noto, e quindi ciò fa sì che la percentuale di pazienti donne che si ammalano risulti aumentata rispetto a quella dei maschi. Ma in linea di massima sono malattie che colpiscono in modo quasi sovrapponibile i due sessi. Per gli ascoltatori e le ascoltatrici un numero verde unico 824 0024, ma professor Bandello, io vorrei dare qualche buona notizia, perché le terapie negli ultimi anni hanno davvero fatto grandi passi avanti nella cura delle patologie retiniche. Vogliamo dare un aggiornamento della situazione? Sì, diciamo, noi abbiamo vissuto fino a circa 15 anni fa avendo a disposizione un unico strumento di trattamento delle malattie retiniche, che era il laser. Il laser, che era uno strumento invasivo che produce delle ustioni, delle bruciature del tessuto retinico e che concettualmente agiva sempre producendo delle piccole amputazioni tissutali. Queste amputazioni erano utili a migliorare la prognosi delle varie malattie retiniche. Poi sono arrivate delle altre soluzioni terapeutiche un po' meno invasive, come per esempio la terapia fotodinamica per la degenerazione maculare legata all'età, e poi nel corso degli ultimi anni, sì, con delle acquisizioni sulle cause della malattia, sulla storia della malattia, su quali sono gli elementi che portano alle varie complicanze retiniche delle varie malattie, si sono andati mettendo a punto dei trattamenti che sono basati sull'impiego di farmaci che vengono iniettati all'interno dell'occhio mediante una procedura di iniezione intraoculare banale, che fa una gran paura, ma che garantisco non è poi una procedura granché importante per il paziente. Ebbene, queste procedure sono in grado di portare il principio attivo, il principio farmacologico utile, a diretto contatto della retina, con un miglioramento sostanziale della qualità delle nostre prestazioni terapeutiche. Il lato negativo di queste procedure è che oggi queste procedure devono essere reiterate, cioè bisogna ripeterle nel tempo. Mano a mano che il principio attivo viene riassorbito, bisogna reintegrare il principio attivo con una nuova somministrazione, però sicuramente la qualità delle nostre prestazioni è migliorata in un modo sostanziale. E questo è accaduto poi per la degenerazione maculare, ma sta accadendo anche per altri tipi di malattie retiniche, come per esempio la retinopatia diabetica di cui si parlava prima e le occlusioni venose retiniche. Allora, 824 0024, chiamateci se volete saperne di più, se volete occuparvi, approfittare del professor Bandello per farlo, di occuparvi della vostra retina. Una mela al giorno. E a proposito di mela, la sua fama di paladina della salute rischia di essere un po' offuscata da nuove star che hanno la capacità di conquistare il consumatore, che è convinto dei loro effetti benefici sulla salute e sulla bellezza, ma anche di piacere agli esperti, che le considerano una valida fonte a cui attingere in termini sia preventivi sia terapeutici. Insomma, quando si dice prendere due piccioni con una fava, la fava in questo caso sono i nutraceutici. È una grande famiglia che comprende i cibi funzionali, gli integratori alimentari, i probiotici, ma anche i prebiotici, quindi una famiglia assolutamente ricca ma complessa, che rischia di farci fare un po' di confusione. Allora, in linea con noi abbiamo un grandissimo esperto che ci aiuterà a chiarirci le idee e soprattutto a insegnarci a scegliere quello più adatto per il nostro caso. Saluto il professor Cesare Sirtori, che è presidente della Società Italiana di Nutraceutica e preside della Facoltà di Farmacia all'Università degli Studi di Milano. Professore, bentornato. Grazie. Allora, professore, chiedo proprio a lei di aiutarci a fare una sorta di specchietto, quello che si faceva quando si studiava per capire bene la situazione, in modo che di ciascuno di questi componenti possiamo capire bene la funzione e l'utilizzo. Partiamo dai cibi funzionali, che a tutti gli effetti fanno parte dei nutraceutici. Che cosa sono e che cosa servono? Sono alimenti che, oltre a dare quanto atteso, cioè energia, ricambio proteico, eccetera, danno qualcosa in più alla salute. Più note sono le proteine vegetali, soia, adesso lupino, pisello, che vengono formulate in prodotti idonei all'alimentazione quotidiana e, per esempio, abbassano il colesterolo o abbassano la pressione. Sono alimenti funzionali, cibi ricchi in fibre. Un alimento funzionale, almeno così viene considerato, è l'olio d'olivo extravergine, che ha contenuti di antiossidanti che possono essere utili alla salute. Quindi una gamma di prodotti che servono anche a nutrirsi. Professore, lei ha citato l'olio extravergine. È vero che tra i cibi funzionali possiamo anche annoverare il cioccolato amaro? Cioccolato amaro è un alimento, per modo di dire, perché uno non si alimenta di cioccolato, però è importante quello che lei dice, perché c'è una tribù che si chiama Kuna, che vive di fronte a Panama, che si nutre in larghissima misura con cacao. Ed è interessante perché ha la pressione bassissima e il colesterolo bassissimo. Ecco quindi l'interesse del cioccolato, ripeto, amaro, che contiene sostanze che si chiamano epicatechine, che abbassano la pressione. Il professor Ferri dell'Università dell'Aquila ha presentato dei dati veramente sconvolgenti su cosa può fare questo tipo di trattamento nutraceutico. Purtroppo si tratta ancora di un prodotto ad alte calorie, però devo dire che è uno degli aspetti più innovativi in questo settore, che comprende oggi negli Stati Uniti 29.000 prodotti, con un aumento di 1.000 ogni anno. Professore, andiamo invece agli integratori, che, come suggerisce la parola, vanno ad integrare una dieta povera di determinate sostanze. Quindi, però, professore, per compensare una carenza, prima di tutto bisogna sapere se c'è, individuarla. Se la carenza, per esempio, degli acidi grassi omega 3, che sono tra i principali integratori, è stato descritto esistere in 2/3 della popolazione, sì. In totale che per migliorare settori come dall'ipertrigliceridemia fino ad alcune patologie mentali, si pensi che adesso gli omega 3 vengono somministrati ai reduci dell'Iraq, che hanno particolari problemi comportamentali. Ma ci sono altri settori, sentivo poco fa il collega oculista, nella degenerazione maculare sono stati presentati dati a questo punto molto più convincenti su prodotti di uso comune che sono i derivati delle alghe, luteina e astaxantina, che somministrati cronicamente, l'hanno presentati gli oculisti di Roma, danno effetti veramente importanti sulla degenerazione maculare nelle forme diciamo meno acute e meno necessitano i prodotti Befacizumab, Ranibizumab, eccetera, a cui faceva riferimento il collega poco fa. Ma ci sono tantissimi altri prodotti, si pensi solo allo sport e all'artrosi. Cosa diamo allo sportivo? Farmaci non ce ne sono per lo sportivo, anzi i calciatori, veniva spiegato, i calciatori hanno il divieto di entrare in farmacia. Ecco quindi per loro una serie di integratori che vanno dalle maltodestrine alla glucosamina a tanti altri prodotti che può servire per l'integrità articolare e anche per migliorare la funzione. Un collega belga ha presentato dati sulla creatina che praticamente non ci aspettavamo, molto superiore a quanto noi conoscessimo. Un altro settore è l'artrosi. Anche qui il medico cosa prescrive? Può prescrivere degli antinfiammatori che però sono sintomatici. La malattia migliora invece con alcuni integratori, appunto in particolare la glucosamina, l'acido ialuronico ed altro, che sono degli integratori, non sono dei farmaci. Direi che comunque questo congresso ha dimostrato che questi prodotti non sono così delle banali illusioni per il malato, ma sono prodotti che abbassano il colesterolo in modo veramente notevole ed anche la pressione. Stati dati che io francamente non mi sarei aspettato e che danno una particolare nobiltà a questo settore che sta avanzando, mentre i farmaci sono una linea piatta, non c'è nessuna novità, questi aumentano del 15-20% all'anno e nel futuro da lì dovremo trarre i farmaci di nuova generazione. Professore, io vorrei chiudere con i probiotici e i prebiotici, proprio basta una vocale per fare la differenza, ma cosa sono? I probiotici sono delle culture batteriche, sì. Sono i prodotti a più alto fatturato tra i nutraceutici, servono soprattutto per l'intestino, i problemi intestinali e i problemi di iperattività intestinale, ma hanno anche una potenziale attività nell'eccesso di peso. I prebiotici invece sono alimenti, cosiddetti fruttani, che inducono la formazione di questi batteri, quindi sono alimenti o diciamo integratori che favoriscono la formazione dei batteri che sono poi i probiotici. Sono stato chiaro. È stato chiaro, professore. Io spero di poter dedicare un'intera puntata ai nutraceutici insieme a lei per dare modo ai nostri ascoltatori di approfondire, partendo proprio dal loro caso personale, di capire che cosa e come la nutraceutica può offrire loro. Intanto la ringrazio e spero di sentirla presto. Buona giornata. Buona giornata, lei, grazie. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci della retina perché questo è il tema del giorno. Il nostro ospite è il professor Francesco Bandello, che rimane con noi sino a mezzogiorno. Professore, noi abbiamo detto che la retina è la parte nobile dell'occhio ed è lei che ci permette di vedere. Infatti i danni a questa parte dell'occhio possono portare alla perdita della vista. Ma professore, io vorrei che lei ci aiutasse a fare un po' un distinguo, cioè a spiegare la differenza tra quantità di vista ed entità di difetto di vista, perché io credo sia fondamentale per proseguire un po' la nostra chiacchierata. Sicuramente sì, penso sia un servizio utile da fare a chi ci ascolta, perché spesso parlando con i nostri pazienti, ahimè anche con i nostri studenti, eccola lì che viene fuori il professore. No, ma si rileva che quindi se state preparando l'esame di oculistica segnatevelo, perché ve lo chiede No, ma è un concetto molto semplice che però non è passato evidentemente. Il concetto è che un conto è la quantità di vista, cioè quanto quell'occhio è in grado di vedere, e questo viene calcolato in decimi in Italia, poi in altre nazioni viene utilizzato altri tipi di frazioni, sì. Ma il concetto è quanto uno riesce a vedere, 10 decimi, 9 decimi, 1 decimo a seconda dei casi. Sì. In genere questo valore di quantità di vista, perché sì, abbia un senso, viene dato considerando la correzione migliore possibile del difetto di vista. Intendo dire che se una persona è un miope di una diottria, senza gli occhiali vedrà 7 decimi, 6 decimi, mettendo quella diottria di difetto di vista davanti agli occhi, correggendo la miopia di una diottria, vedrà 10 decimi. Quindi noi abbiamo il concetto quantità di vista quantificato dalla misura in decimi e il concetto difetto di vista o ametropia, come viene definita con termine più tecnico, ametropia, che quantifica la entità del difetto di vista. Le due cose sono assolutamente indipendenti una dall'altra, nel senso che una persona può avere 8 diottrie di miopia, 10 diottrie di miopia, correggere quel difetto di vista e vedere perfettamente, se non ci sono altre lesioni, se non ci sono malattie, ma c'è solo il difetto di vista, e viceversa ci sono delle persone che anche senza avere difetti di vista vedono solo 3 decimi, perché semmai c'è un danno a carico dei vari tessuti dell'occhio che ha prodotto una incapacità a vedere normalmente. Mi sembra che sia chiaro, professore, ma occupandoci di nuovo, questo è valido un po' per l'occhio in generale, giusto? Per tutti? Per tutti, certo. Invece, se noi dato che ci occupiamo di retina, ci vuole dire se ci sono dei segnali che possono farci capire che la nostra retina sta iniziando ad avere problemi? Abbiamo prima parlato delle categorie più a rischio, abbiamo citato i miopi, abbiamo citato i diabetici, le persone avanti negli anni, gli ipertesi, ma come faccio ad accorgermi che la retina può avere qualche problema? Perfetto. Allora, diciamo, l'occhio che non vede, l'occhio che vede male, è una delle grandi sindromi oculari, no? Il paziente arriva dall'oculista sostanzialmente per una delle seguenti 3 sindromi, che sono o vedere male, o avere l'occhio rosso, oppure avere il dolore agli occhi. Questi sono l'occhio rosso, l'occhio che non vede e l'occhio che fa male, sono le 3 sindromi oculari. Noi adesso stiamo parlando dell'occhio che non vede. Sì. Bene, l'occhio può non vedere con differenti modalità, nel senso che al non vedere si associano o meno degli altri sintomi. Allora, il sintomo che associa il paziente che ha un problema retinico, oltre al vedere poco, è il vedere storto. Questa è la cosa più importante da comunicare a chi ci sta ascoltando. Se uno ha un problema alla retina, di solito vede male, vede meno e vede storto. Vedere storto vuol dire vedere in un modo deformato. Guardare lo stipite di una porta e vederlo non rettilineo come dovrebbe essere, guardare le fughe delle mattonelle e rendersi conto che non sono più rettilinee ma sono curve, deformate, non riuscire più a leggere perché i caratteri si deformano, guardare i lineamenti del volto di una persona nota, una persona cara, e semmai rendersi conto che sono diversi dal normale. Tutte queste sono tipiche manifestazioni di un problema retinico, perché significano che la retina ha subito una deformazione, è alterata nel suo profilo da una malattia e conseguentemente il paziente vede storto, vede deformato. Ecco, di fronte a faccio dire un'altra cosa e poi la lascio, mi scusi. L'altra cosa fondamentale è che queste cose sono fisse, sono dei disturbi fissi. Il paziente muove lo sguardo e li vede sempre nella stessa posizione e vanno tenuti distinti da quei disturbi che invece sono mobili e che sono riconducibili ad altri tipi di problema di cui avevamo parlato tempo fa in un'altra trasmissione, che sono per esempio i problemi vitreali del corpo vitreo, che sono delle cose che si muovono, oscillano con i movimenti dello sguardo. Quindi vedere meno, vedere storto in un modo fisso, i disturbi tipici delle malattie retiniche. Ecco, in questo caso, professore, non temporeggiamo ma andiamo dall'oculista, è questo che dobbiamo fare. È fondamentale che in presenza di questi sintomi il paziente arrivi dall'oculista, perché l'oculista può fare molto di più se fa tempestivamente, se fa subito quello che oggi è possibile fare, interporre dei tempi morti nel percorso che porta il paziente dall'oculista significa con certezza pregiudicare poi l'andamento della malattia. Un trattamento che arriva in ritardo avrà sempre maggiori difficoltà di mettere la marcia indietro e far tornare alla situazione precedente il paziente. Quello che noi riusciamo a fare nella grande maggioranza dei casi è stabilizzare una situazione che troviamo, evitare che peggiori, ma più tardi si arriva peggio è. Quindi mi raccomando, chi vede storto e vede meno si faccia vedere dall'oculista prima possibile. Angelo ci chiama da Brescia, poi abbiamo Brunella. Angelo, inizia a salutare lei perché poi abbiamo i mercati. Resta con noi? Sì. Siamo tornati insieme, Retina 824-0024, oggi insieme al professor Francesco Bandello abbiamo Angelo che ci aspetta da Brescia. Angelo, buongiorno, ribuongiorno, eccoci. Buongiorno. Ci racconti, Angelo. Allora, io innanzitutto faccio i complimenti a lei e a tutto lo staff, perché è una trasmissione veramente interessante. Ascolti. Grazie. Io voglio fare una testimonianza. 13 anni fa, come diceva il professore, no, io sono stato colpito da una trombosi venosa parcellare. Vedevo tutto storto, vedevo male. Sì. Sono stato a farmi visitare in ospedale, mi hanno dato dei farmaci, cioè dei colliri, poi mi hanno raccomandato di prendere la microaspirina tutti i giorni e l'ho fatto per un 5-6 anni, poi ho smesso perché stavo abbastanza bene. Sì. 3 anni fa ho avuto un po' un tracollo questo occhio, no? L'occhio destro. E le linee storte sono diventate una macchia, no? Proprio una visione, cioè vedo malissimo. Sono stato di nuovo in ospedale e in ospedale mi hanno detto che la cosa è peggiorata, la retina si sta perforando, mi hanno detto, e dovevo fare un intervento chirurgico. Sì. Però grazie a mia moglie, no, che ha seguito particolarmente la mia malattia, sono andato da un dottore laureato ovviamente, sì? Un dottore, e cosa gli ha detto? Anziché fare l'operazione mi ha detto non operarti, fai una dieta. Io ho fatto una dieta, adesso non gliela sto a descrivere perché non la so neanche bene, dovrebbe spiegargli. Dovrebbe passarci sua moglie, però che cosa ha inserito o che cosa ha eliminato? Ho eliminato per esempio il pane, i farinacei, sono una dieta semplicissima da seguire, sì? Si mangia abbastanza bene, però ho eliminato alcune cose, insomma. E sta meglio? E non mi sono fatto operare e dopo 3 anni sto veramente meglio. Ci vede meglio? Ci vedo meglio, non è che sono guarito ovviamente, e anche il trauma, il secondo che ho descritto, ho capito. È ancora bene. Però l'occhio che in ospedale mi hanno detto oramai in questione di mesi lo perderai, io non l'ho perso, ce l'ho ancora e vedo abbastanza bene. Bene, grazie Angelo per questa sua testimonianza. Io però vorrei sentire un parere del professor Bandello. Professore. Ma la dieta è così importante? La dieta è senz'altro importante, però io vorrei sfuggire alla descrizione del singolo caso specifico e cercare di trarre, certo, delle considerazioni più generali, perché altrimenti forse non facciamo quello. Non facciamo il servizio, che lei spera di fare, certo, giustamente. Allora, sicuramente è importante la dieta, è una dieta incongrua a lunga distanza di tempo, se fatta per una vita, può da ultimo contribuire, se non causare, almeno essere una concausa di problemi oculari. Sì. È dimostrato che ci sono dei principi attivi che sono contenuti in alcuni tipi di alimento che sono utili a proteggere per esempio dai processi ossidativi e quindi ritardare i processi di invecchiamento tissutale, e quindi per esempio l'olio d'oliva, la dieta mediterranea, le solite cose che ormai... Anche il professor Sirtori, mi scusi professor Bandello, sottolineava, lo stava dicendo poco fa, che ci sono appunto nella famiglia dei nutraceutici, ce ne sono alcuni, lui ha citato la luteina, che possono, certo, la luteina, possono, la zeaxantina, ecco, che si trovano nelle verdure, nella negli alimenti foglia larga, verdi, eccetera, quindi sono tutte cose giuste queste, e forse vale la pena di ribadirlo anche in questa sede. Al contrario, sono alimenti che poi alla fine producono dei danni, quelli che contengono molti grassi animali, che sicuramente contribuiscono invece a determinare, sì, dei processi che portano poi allo sviluppo di alcune malattie. Però da qui a dire che attraverso una dieta si possa risolvere un problema retinico, questo è un passaggio secondo me più difficile da immaginare che si possa essere realizzato. Può sicuramente aver contribuito qualcos'altro che semmai contemporaneamente si è verificato. Cioè, la dieta entrare, non è, ripeto, certo, nel merito, ma è chiaro, perché noi prendiamo spunto dalle telefonate dei nostri ascoltatori per partire dal caso particolare e dare dei consigli a livello generale. Quindi la dieta può fare, ma non risolve. vivere, questo possiamo dire. Assolutamente, sì, sono d'accordo con lei. È importante che ciascuno di noi abbia a cuore il tipo di alimentazione, conoscendo quali sono gli effetti collaterali a lunga distanza di tempo di alcuni tipi di alimentazioni e gli effetti protettivi di altre alimentazioni. Però più in là di questo non direi, perché altrimenti rischiamo poi di fare una cattiva informazione. Andiamo a Siena, ci aspetta Brunella. Brunella, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, brava e simpatica. Grazie, oggi è la giornata mia. Grazie Brunella, me le prendo tutte, grazie. Il mio problema è questo: sono diabetica di tipo 1 da 5-6 anni e nell'ultimo controllo che ho fatto oculistico mi è stata diagnosticata un inizio di retinopatia. Sì. Ecco, io però c'ho anche un altro, cioè sono allergica ai mezzi di contrasto e volevo sapere dal professore, diciamo, perché mi hanno paventato il fatto della fluorangiografia. Sì. Per cui vorrei sapere prima però se, essendo allergica a molti prodotti, come si potrebbe fare una prova di questa prova. Certo. Che è un esame importante. Professor Bandello, Brunella ci dà tanti spunti. Sì, sicuramente. Lei da 4-5 anni è diabetica di tipo 1, ma in precedenza è stata diabetica di tipo 2. Brunella. No, scusi. Perché era di tipo 2, vero? Io sono con gli antidiabetici orali. Allora di tipo 2, non di tipo 1. Di tipo 2. No, infatti mi sembrava strano. Mi sono sbagliata. No, Brunella non è mica un grande errore. Il professor Bandello capisce, perché capisce lo stesso, nel senso che noi sappiamo, ma il professor Bandello mi può correggere, che solitamente il diabete di tipo 1 insorge nell'età relativamente precoce. Sì. Per cui questo ci ha fatto. Però benissimo, noi abbiamo parlato dei diabetici come di categoria a rischio per la retina. Assolutamente sì. Dunque, anzitutto vorrei spendere una parola su questo punto perché è importante. Il diabetico è giusto che si faccia vedere gli occhi, si faccia controllare da un oculista quando non ha sintomi visivi. Fatevi controllare gli occhi, cari diabetici, quando i sintomi visivi sono ancora assenti. Non aspettate di avere dei sintomi, perché altrimenti rischiate di arrivare alla diagnosi ed al trattamento con ritardo rispetto a quello che sarebbe potuto essere. È giusto farsi vedere quando i sintomi non ci sono. In quel momento l'oculista ha l'opportunità di fare più di quanto non possa fare dopo. Ciò premesso, per arrivare alla diagnosi si deve guardare il fondo dell'occhio, che vuol dire fare una visita oculistica con la pupilla dilatata, mettendo quelle gocce che fanno vedere male per qualche ora, ma che sono per noi importantissime per migliorare la qualità dell'informazione che noi riusciamo ad avere guardando il fondo dell'occhio del paziente. La fluorangiografia è un tipo di esame che viene utilizzato di solito dall'oculista quando ha delle informazioni che non riesce a considerare definitive, ha dei dubbi, sì, ha bisogno di qualche informazione in più, e allora a quel punto può rendersi necessaria la fluorangiografia, che non è mai indispensabile per emettere diagnosi. E non si commetta l'errore di ritenere che uno deve fare la fluorangiografia per sapere se ha o meno la retinopatia diabetica. La retinopatia diabetica la si scopre guardando il fondo dell'occhio, punto e basta. Un buon oculista lo riesce sempre a vedere. Il momento successivo, che è quello di dire voglio vedere meglio come stanno le cose, ho bisogno di chiarirmi le idee su questo tipo di lesione piuttosto che su quest'altro, ho bisogno di stabilire che tipo di trattamento convenga fare di più, queste sì sono cose che è meglio fare disponendo di un'informazione fluorangiografica. Professor, mi dica. Mi scusi, poi un'altra considerazione volevo fare per la signora. Sappia che non è un mezzo di contrasto la fluoresceina, il fluorescenato di sodio, che è il colorante che viene utilizzato per fare la fluorangiografia. Un conto sono i mezzi di contrasto radiopachi, che sono quelli che si utilizzano per esempio per gli esami dei reni, piuttosto che per altri tipi di indagini con mezzi di contrasto radiopaco. Un conto è il colorante fluorescenato di sodio, che non necessariamente determina lo stesso tipo di reazioni che si hanno con i mezzi di contrasto radiopachi. E questo proprio che volevo sapere, professore, ma lei si è fatto la domanda e si è dato la risposta, perfetto. Gli esami a cui lei fa riferimento, quindi l'esame del fondo oculare, sono indicati quindi a tutte le persone dopo i 55 anni, oltre che ai diabetici, ai miopi, alle persone ipertese? Un esame del fondo dell'occhio in una persona che ha superato i 50 anni è sicuramente opportuno, ma direi più che il fondo dell'occhio è una visita oculistica, perché per esempio è la visita oculistica la circostanza in cui, adesso dovremmo aprire una parentesi enorme che apriamo e chiudiamo subito, sì, è il momento in cui misurare la pressione degli occhi, che è un altro parametro importante dello stato di salute degli occhi, ed è solo misurandola che ci si può rendere conto se la pressione è più alta del normale. Si tenga presente che una pressione più alta del normale non nota al paziente può portarlo ad avere dei danni al nervo ottico irreversibili, che sono l'essenza della malattia glaucoma, che è una malattia di cui non si può parlare in pochi minuti adesso, però sicuramente è giusto sapere che la pressione degli occhi va misurata in assenza di sintomi anche lì, e quindi fare una visita oculistica che comprende la misurazione della pressione oculare a 50 anni è sicuramente una cosa utile che può evitare tanti drammi. Ecco, noi insistiamo sempre, proprio con l'aiuto dei nostri oculisti che vengono a trovarci in puntate dedicate proprio alla vista, insistiamo a controllatevi quando non avete ancora sintomi, controlliamoci quando vediamo bene. A proposito di controlli, voglio segnalarvi su Roma l'iniziativa della IAPB, l'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità, che mette a disposizione proprio un camper attrezzato ad ambulatorio oculistico che girerà per tutta Roma, e quindi fino ad aprile i romani potranno sottoporsi a queste visite gratuite, naturalmente nel caso saranno poi inviati a fare accertamenti ulteriori. 800 06 8506, questo è il numero verde della IAPB, ricordo c'è sempre un oculista pronto a rispondere alle vostre domande, e naturalmente vi rimando anche al sito www.iapb.it, quindi questo ancora per avvicinare di più il cittadino alla prevenzione e quindi a prendersi cura della propria vista. Buongiorno Dario, che ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Benvenuto. Buongiorno a voi. Ascolti, io volevo fare una domanda al professore. Sì. Mia moglie circa un anno fa, mia moglie ha 42 anni, è stata colpita da maculopatia dovuta a una formazione di due vasi nell'occhio. Abbiamo fatto un intervento, un'iniezione intravitreale con Avastin, facendo i 12 scongiuri, è quasi passato un anno, per cui fra un po', se non succede niente, sembrerebbe tutto bloccato. Sì. E io volevo sapere dal professore se potrebbe essere un soggetto a rischio per qualche problema alla retina. Grazie Dario. Professor Bandello, intanto ci spiega questa sorta di maculopatia? Dario diceva i vasi ostruiti. No, si tratta di questo. La degenerazione maculare, indipendentemente dalla sua natura, che sia legata all'età oppure no, può complicarsi con una cosa che si chiama neovascolarizzazione. In termini molto semplici si tratta di questo. Normalmente la retina è separata da un tessuto che le sta al di sotto, che si chiama coroide, dalla interposizione di una membrana impermeabile, che noi chiamiamo membrana di Bruch. Allora, nel vecchio, a causa di un processo di invecchiamento, quindi di perdita di efficienza, nel miope a causa del fatto che questa membrana viene stirata da un eccesso di allungamento dei tessuti dovuto al fatto che l'occhio è più lungo del normale, questa membrana perde la sua impermeabilità, diventa permeabile e si fa attraversare da alcuni vasi che provengono da quel lago che sta sotto la retina, che è la coroide, da quel lago di sangue pieno zeppo di vasi. Sì. Questi vasi entrano attraverso la soluzione di continuo della membrana diventata permeabile, entrano all'interno della retina e cominciano a crescere. Crescono, ahimè, sempre in direzione della parte più centrale della retina, cioè della parte più nobile, sì, la macula. E perciò ci dice degenerazione maculare. Ebbene, crescendo all'interno della retina, indirizzandosi verso la macula, producono dei danni al tessuto, sovvertono la normale citoarchitettura retinica, dando dei danni che sono, ahimè, per definizione irreversibili. Irreversibili perché la retina è formata da cellule perenni, quelle che noi abbiamo alla nascita ce le portiamo dietro per tutta la vita, quindi se c'è un processo patologico che ne fa morire alcune, come quello che stiamo descrivendo, purtroppo quel danno è irreversibile. Bene, i farmaci di cui stiamo parlando, che sono dei farmaci che contrastano la crescita dei vasi e che sono nati originariamente per una linea di ricerca che era per la cura dei tumori, ebbene questi farmaci hanno la capacità di inibire la crescita di questi vasi neoformati che vengono da quel tessuto che sta sotto la retina. Sì. Quindi questo farmaco riesce a bloccare la crescita dei vasi e produce una precoce formazione di cicatrice, laddove viceversa la cicatrice si sarebbe formata molto tempo dopo con dei danni molto maggiori. Quindi quello che noi riusciamo oggi a fare rispetto al passato è ottenere che la lesione neovascolare si arresti subito, diventi subito cicatrice, e ciò facendo limitiamo i danni. Quando io all'inizio dicevo prima si arriva meglio è proprio per questo motivo, perché se uno arriva dopo, la crescita di quella membrana sarà risultata molto più ampia, sì, il danno sarà molto più ampio, la funzione visiva sarà molto più compromessa, ovviamente. Professore, Dario diceva, ha fatto questo trattamento, per adesso tutto bene, potrebbe essere a rischio? È sicuramente a rischio. Quindi controlli. La possibilità di una recidiva esiste. Il miope ha una probabilità di recidiva che è più bassa rispetto alla degenerazione maculare legata all'età, per cui la prognosi è in genere migliore. La storia che ha descritto è una storia relativamente frequente per una degenerazione maculare miopica. Giannina invece, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, io la seguo spesso e volentieri quando posso, quasi sempre. Meno male. Ringrazio la trasmissione per il professore che ci mette a disposizione. Senta, cercherò di sintetizzare, scusi un po' l'emozione perché non capire. Sì. Allora, il mese di novembre scorso io ho avuto un'esplosione, diciamo così, all'occhio destro, praticamente una, come se fossero stati dei lampi, sì, e una fuoriuscita di vitro, direi adesso. Sì. Diciamo così, una colata sull'occhio. Chissà che spavento, certo. Mi sono spaventata moltissimo, ho cercato di calmarmi, dico una cosa passerà, vabbè, e niente, a seguito di questo ho avuto una specie l'occhio praticamente pieno di ragnatele, tipo ragnatele. Ecco, scusi l'espressione. No, ma così sono capiamo bene tutti. Sono andata dal mio oculista, il quale praticamente non ha detto esattamente il nome, o forse non l'ho percepito, può anche darsi, e mi aveva detto di mettere un collirio di cui il nome l'ho dimenticato. Va il collirio bene. Non mi è piaciuto perché praticamente aveva tante di quelle controindicazioni che mi aveva spaventato. Nel frattempo io vedevo, ho lasciato passare praticamente un paio di mesetti, però ho fatto successivamente una visita oculistica, sì, il fondo oculare, la pressione era 18, ecco, il medicinale che mi davano era per il glaucoma. Sì. Adesso come vede Giannina? Ecco, allora sono stato operata giovedì scorso. Ah, ecco, fresca di operazione. Mi hanno diagnosticato un pucker maculare. Professor Bandello, questa è la storia di Giannina. Intanto saluto il professor Alfredo Pece, con cui parleremo in chiusura di riabilitazione visiva. Professor Pece, buongiorno. Buongiorno a voi. Il tempo di dare il tempo al professor Bandello di rispondere a Giannina, trarrà uno spunto dal racconto di Giannina per dare delle indicazioni a tutti noi e poi parliamo di riabilitazione. Professor Bandello. Allora, io direi, anzitutto, quello di cui parliamo stiamo per parlare è diverso come argomento rispetto a quello che abbiamo affrontato, sì, fino ad ora, e fa parte di quel discorso delle che patologie accennato. Vitreali che io le accennavo precedentemente. Sì. Normalmente l'occhio è riempito da una gelatina che si chiama corpo vitreo, che dalla nascita in poi subisce, come tutti i tessuti dell'organismo, un processo di trasformazione. Originariamente alla nascita è come la gelatina della carne Simmental, cioè un blocco omogeneo, sì, di un tessuto che è identico in tutte le sue parti, perfettamente trasparente. Questa gelatina serve anche a tamponare la retina, cioè spinge la retina contro i tessuti che le stanno sotto e quindi contribuisce a tenerla attaccata alla parete oculare. Con gli anni la gelatina si trasforma, diventa acqua da alcune parti, diventa più densa da altre parti e soprattutto tende a occupare uno spazio minore rispetto a prima, cioè in pratica tende a collassare, a sgonfiarsi come un sacchetto, come un palloncino di gomma. Sì. Quando questo accade, il corpo vitreo si stacca dalla parete interna dell'occhio, che è appunto tappezzata dalla retina, e determina quel processo che noi oculisti definiamo distacco posteriore di vitreo. durante il processo di distacco posteriore di vitreo può esserci il sintomo lampi, per il semplice motivo che il vitreo, prima di staccarsi dalla retina, esercita una trazione sulla retina stessa, la stimola meccanicamente, e la retina, quando è stimolata meccanicamente, avendo solo fotorecettori, dà una sensazione visiva, dai certo. Lampi flash, eccetera. Professor Pece, io ho 30 secondi e non bastano per parlare di riabilitazione visiva. Torneremo domani o dopodomani a dare delle indicazioni proprio a seguito di questa puntata, che è stata particolarmente ricca di interventi. Professor Pece, la riabilitazione visiva però può fare davvero la differenza per le persone che per una malattia della retina stanno perdendo la vista? Possiamo anticipare questo e tornarci domani? Assolutamente sì, è un po' il contrario di quello che dicevamo prima, cioè qua si deve intervenire quando la visione è molto molto scarsa per varie malattie che hanno comportato un deficit visivo. A quel punto la persona diventa poco autonoma, soprattutto certo. Per la vicinanza, e tutti noi sappiamo quanto sia importante poter leggere, poter lavorare da vicino, sia in condizioni di età più giovane che ma comunque anche in età più avanzata. Allora, professor Pece, noi domani ci risentiamo per dare le informazioni ai nostri ascoltatori. Intanto saluto il professor Bandello. Domani parleremo anche di quella salsa che ci fa impazzire, in chiusura, di maionese, quindi se state facendola domani vi diremo come. Tema di domani però saranno i disturbi del sonno, quindi io vi aspetto a domani. Buona giornata, grazie ai miei esperti e buona giornata a tutti.